Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È in libreria il nuovo romanzo di Amelino Tomba, si intitola Una forma di vita, pubblicato da Voland con la consueta traduzione di Monica Capuani. Non possiamo dire che sia fra i migliori libri della scrittrice belga, ma comunque vale la pena di leggerlo perché Lano Tomb riesce a presentarci un argomento sempre da un punto di vista originale. Questa volta l'argomento è l'obesità, vista come forma di protesta nei confronti della guerra. Il romanzo è lo scambio di lettere fra la stessa Lano Tomb e Melvin, un immaginario soldato americano di stanza Baghdad, un soldato che ha deciso di ingrassare per sabotare la guerra. Ecco come Amelino Tomb descrive il suo protagonista nell'intervista di Paola Nania. C'est un soldat américain basé à Bagdad depuis le début de la guerre, donc depuis 2003. È un soldato americano di stanza a Baghdad ed è un lettore dei libri di Amelino Tomb, quindi dei miei libri. Inizia a scrivermi e così scopro che il suo problema è la bulimia e lui è diventato obeso. E ogni giorno che passa diventa sempre più grasso. Chaque jour qui passe, il devient de plus en plus gros. Una storia che potremmo dire originale come tutte le storie di Amelino Tomb, una storia vera, un'idea che è nata da dove e se non è cioè frutto di fantasia dunque questa storia o appunto vera, nasce da un episodio reale. L'histoire est imaginaire, mais basée sur des réalités. È una storia immaginaria, ma basata sulla realtà. C'è stata un'epidemia di obesità fra i soldati americani a Baghdad ed esiste anche un'autrice belga che si chiama Amelino Tomb. È stato audace da parte mia mettere insieme la grande storia, la guerra in Iraq, con la storia più piccola della scrittrice. L'écrivain belge qui répond dans son petit bureau. Perché la scelta di abbinare la guerra all'obesità, quindi l'obesità come forma di protesta alla violenza? Perché questo legame? Il fallait pour moi interpréter cette obésité. Pourquoi est-ce que tant de soldats américains basés en Iraq? Bisognava interpretare questa obesità dei soldati americani di stanza in Iraq. Di solito la guerra è qualcosa che porta alla magrezza, non al grasso. E allora la mia interpretazione è che si tratti di una forma di resistenza alla guerra. Una resistenza attiva perché i soldati non entravano più nelle divise militari, non entravano più nei carri armati, ma anche una resistenza simbolica, perché l'immagine del soldato americano è quella di virilità e potenza. Al contrario, gli obesi danno un'immagine di debolezza e femminilità. Una forma di resistenza, di protesta alla guerra, che da vincitori o da sconfitti. Ah, en l'occurrence, je pense que c'est une résistance de vaincus. In questo caso si tratta di vinti. Questa guerra è stata un errore. Gli americani hanno fatto finta di averla vinta, ma in realtà è una guerra che stanno perdendo, che hanno perso. E l'obesità, da una parte, dà l'idea di prosperità, ma in realtà è il sintomo di una grande povertà, di una miseria, di una sconfitta profonda. Donc c'est le signe d'une défaite profonde. Senza svelare molto del libro, a un certo punto Malvin non scrive più ad Amélie. Come reagisce Amélie? Beh, c'est une situation qui m'arrive très souvent puisque j'ai beaucoup de correspondance. Beh, questa è una cosa che mi accade molto spesso in realtà nelle mie corrispondenze con i lettori. Le persone a un certo punto smettono di scriverti. E a volte è bello se la persona non ti piace, ma se invece la persona con cui hai la corrispondenza ti interessa, ti preoccupi. In più, in questo caso, Melvin è un soldato e c'era ancora più preoccupazione. Puoi pensare che sia morto. Però è una legge della corrispondenza. C'è il diritto a tacere. È difficile da accettare, ma bisogna rassegnarsi. Il n'y a rien à faire. E legge della corrispondenza che lei conosce bene perché ha un rapporto particolare in genere con i suoi lettori. Ce ne vuole parlare? Je suis probablement l'écrivain qui entretient le plus de correspondance avec ses lecteurs. Io sono forse la scrittrice che ha più rapporti di corrispondenza con i suoi lettori. Io non c'entro niente. Sono loro che hanno iniziato a scrivermi come dei pazzi e il fenomeno si è aggravato quando hanno capito che io rispondevo. Dopo che è uscito questo libro, Una forma di vita, nel quale ho la cattiva idea di raccontare che rispondo a tutte le lettere, la mia corrispondenza si è quadruplicata. È un lavoro che richiede tempo e una fatica enorme, ma è molto emozionante. Non è per masochismo che rispondo alla posta che ricevo. Lo faccio perché permette di andare molto lontano in una relazione umana. Quello che i lettori mi dicono del libro, di me e di loro stessi, non potrebbe avvenire altro che in una corrispondenza. Sarebbe impossibile autrement que par correspondance. Scrivono appunto per chiedere solo curiosità legate al libro, anche per raccontare le loro storie, nella speranza che vengano accolte. C'est vrai que vous avez raison que beaucoup de lecteurs m'écrivent dans l'espoir que je raconte leur vie. Molti lettori mi scrivono raccontando le loro storie, sperando che io le metta nei libri, ma non succederà mai. Il bello della corrispondenza è proprio il segreto. Per questo non mi piace la mail, non è abbastanza segreta. La cosa più importante della lettera è la busta che contiene il segreto. Quindi anche se alcuni lettori vogliono che io scriva delle loro vite, questo non succederà mai. Ça n'arrivera pas. Quindi non sono email, sono lettere. Lettere, proprio lettere. Je suis la personne. Io sono una persona che non sa cosa sia internet e non sa cosa siano le mail. Un email. Quindi anche l'elogio della lentezza, perché a differenza delle email, le lettere sono, insomma, richiedono una lentezza diversa. Bien sûr. Certo, ci vuole lentezza. E la lentezza porta a maggiore qualità, perché se si scrive prendendosi del tempo, si scrive meglio, scrivono cose più profonde. Per questo io rimarrò fedele alle lettere e non a internet. Ha un amico privilegiato di penna in questo momento, un lettore che le sta particolarmente a cuore adesso. Ne ho moltissimi. Aspetto le loro lettere con il cuore che batte e non vedo l'ora di riceverle. È difficile dirne uno preferito. Che tipo di rapporto ha invece con la scrittura? Lei ha detto che non riesce a farne a meno, è così? J'ai un rapport totalement addictif. Ho un rapporto con la scrittura di totale dipendenza, come una droga, ma una droga buona, perché mi aiuta a vivere. Devo scrivere tutti i giorni. Non parlo delle lettere in questo caso, ma della scrittura dei romanzi. Ogni giorno scrivo almeno per 4 ore. Per me è indispensabile. Da 20 anni mi sveglio alle 4 del mattino e scrivo 4 ore. È indispensabile. Un giorno solo non mi sono svegliata alle 4 e non ho scritto. Ed è stato orribile. Inizia a scrivere ispirata da cosa? Da un episodio della giornata precedente? Da un oggetto che vede? C'est très mystérieux ce qui suscite l'inspiration. È molto misterioso capire da dove venga l'ispirazione. Può essere l'articolo letto su un giornale, può essere una conversazione ascoltata sul tram, possono essere delle cose ancora più piccole, forse è proprio questa la caratteristica. Sono sempre cose molto minime, molto piccole. Un consiglio per i nostri lettori, un libro o uno scrittore che Amelino Tomb consiglierebbe agli ascoltatori di Radio 24? Oh, il y a beaucoup de livres que je pourrais conseiller à mes lecteurs, mais ci sono moltissimi scrittori che consiglierei ai miei lettori, veramente tanti. Però forse adesso consiglierei Haruki Murakami, lo scrittore giapponese, e in particolare il libro Kafka sulla spiaggia, che è un romanzo assolutamente geniale. Abbiamo presentato il libro Una forma di vita. Ha già iniziato a lavorare al prossimo romanzo o no? Tutti i giorni della mia vita scrivo un romanzo. Però posso dirle che il mio prossimo libro è già finito, già consegnato e già accettato dall'editore. Si può dire un'ipotesi di titolo? Vous ne saurez rien. Non saprete niente. E questa era Amelino Tomb, ora in libreria con Una forma di vita. E ora parliamo di Racconti brevi, scritto da Luciana Benardelli e pubblicato postumo da Edizioni Arterigere. Ce ne parla il figlio, Mainardo Benardelli, ambasciatore italiano in Guatemala. Questi piccoli racconti brevi, che qualcuno ha paragonato a quelli di Gianni Rodari, sono un po' un sunto, così, un rassemblement di tutte le sue, di tutti i suoi piccoli raccontini scritti in tutti questi anni di vita. Sono racconti piccoli raccontini. A me mi ricordano per esempio quei racconti brevi di Proust, che ne ha qualcuno, quel filone un po' anche Maupassant. Racconti brevi di cose molto intimistiche, direi io. Ecco, di che cosa parlano appunto questi racconti? Che cosa ci trasmettono? Beh, sono racconti di vario genere. Ce n'è una che per esempio riflette un episodio personale accaduto durante l'epoca della Seconda Guerra, e lei aveva sentito da un amico un racconto di un ferito al fronte. E per esempio lo trasmette su carta, cambiando nomi e situazioni, ma quello per esempio è molto toccante, insomma è l'appello di un morente e un discorso interiore che fa con se stesso. Poi non so, ci sono anche raccontini che sfociano sulla parte più divertente di coppiette in vacanze nei Caraibi, un piccolo affresco di vita in Honduras. Mio padre era stato, cioè suo marito era stato negli anni 60 ambasciatore in Honduras e viene fuori un po' quel clima di una cultura tropicale, simpatica, spensierata. Altri racconti invece sempre sul personale hanno a che fare, non so, con problemi di quotidiani, di jour le jour, con la pubblica amministrazione, con la burocrazia e così via. Io direi che sono piccoli spaccati di vita quotidiana. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate su www.radio24.it e ci trovate anche su Facebook. Un saluto da Alessandra Tedesco.